Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. And the Oscar goes to Roberto! È la sera del 21 marzo 1999, a Hollywood è la notte degli Oscar. È appena stato premiato come miglior film straniero La vita è bella, di Roberto Benigni, che più tardi vincerà anche come migliore attore. È la prima volta che vince un attore che recita in una lingua che non sia l'americano. Tutto il mondo è felice, perché tutto il mondo è rimasto stregato dalla genialità di una sceneggiatura che riesce a raccontare, con un'ironia lieve che viene dall'amore, una delle pagine più nere della storia dell'umanità, l'olocausto nazista. Il film è esilarante e mai offensivo, poetico e doloroso, ma mai disperato. È la storia di un padre che preserva il figlio non solo fisicamente, ma anche psicologicamente, dall'inferno di Auschwitz, facendo sì che il bambino ci passi in mezzo senza esserne segnato in maniera indelebile. Gli farà credere che sia tutto un gioco, sicuramente non divertente, anzi violento, ma nulla di più. Di certo non l'orrore di quella verità. In tre casi si perdono tutti i punti. Li perdono: uno, quelli che si mettono a piangere; due, quelli che vogliono vedere la mamma; tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemand etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Gehorsam kann es alles. Dal bigocche. Und noch etwas. Lui di fragole. Nessun altro attore italiano ha finora mai ottenuto quel riconoscimento. Oltre oceano tendono a premiare gli americani e il cinema hollywoodiano, si sa, è molto raffinato ed esigente. Solo nel 1996 un altro grandissimo attore italiano ha sfiorato quel successo. È un grande amico di Benigni, viene candidato all'Oscar come migliore attore per un film di cui firma anche la sceneggiatura. Non vincerà, ma il suo nome rimarrà per sempre scritto nella storia del cinema. Il film è Il Postino e lui è il primo personaggio del racconto di oggi. Massimo Troisi. Massimo Troisi. Don Paolo, buongiorno. Vi devo parlare con voi, Don Paolo. Deve essere molto importante, perché ansimi come un cavallo. Importantissimo, Don Paolo. Mi sono innamorato. Bueno, non è molto grave. C'è rimedio? No, no, che rimedio, Don Paolo, ma non voglio rimedi, voglio stare malato. Mi sono innamorato proprio, innamorato. Massimo è napoletano, molto napoletano, talmente napoletano che parla quasi sempre solo in dialetto, come tutti quelli di San Giorgio a Cremano, il piccolo paesino alle porte del capoluogo campano in cui nasce il 19 febbraio del 1953. L'affetto è tanto in famiglia, i soldi e le possibilità invece poche. Così come gli spazi in casa, visto che oltre a Massimo e ai suoi cinque fratelli, vivono insieme nello stesso appartamento i nonni, gli zii e altri cinque cugini. In tutto 17 persone. È per quello che lui dichiarerà che quando si trova in un gruppo con meno di 10 persone soffre di solitudine. I ragazzini dell'età di Massimo di solito vanno fuori a giocare all'aperto, anche perché il clima spesso lo consente. La sua casa diventa l'oratorio e la sua scuola la strada, come ci conferma in uno stralcio di intervista a Vite Straordinarie. Come si fa a essere vivo comportandosi da antidivo? Ah, ma è facile, basta essere di San Giorgio a Cremano. Vicino a Napoli, una frazione vicino a Napoli, una bella cittadina, per carità. E là siamo tutti così. Siamo alla fine degli anni 50. Non esistono i videogames, tantomeno a San Giorgio a Cremano. I bambini giocano al massimo a battaglia navale, scarabocchiata su un foglio con una matita. Non ci sono ancora i pattini in linea, ci sono quelli a rotelle che si montano sulle scarpe e si allungano quando cresce il piede. Non ci sono le tortine preconfezionate, la merenda spesso è pane, burro e zucchero. Però ci sono le figurine dell'album dei calciatori che i ragazzini si scambiano nei cortili dicendo «cielo, cielo, manca» e basta un pallone per divertirsi. La scuola finisce all'ora di pranzo e dopo si esce, si scorazza per la strada con le bici per chi ce l'ha, oppure si va all'oratorio. Spesso le mamme non sanno neanche dove sono i loro figli. L'unica cosa che sanno è che questi torneranno a casa per cena, sicuramente sporchi e sudati, magari con qualche sbucciatura sulle ginocchia, ma ancora perfettamente interi. È una vita diversissima da quella di adesso, soprattutto se paragonata a quella che si vive nelle grandi città. Napoli è una carta. serata sporca e nessuna sarà morta e ognuna aspetta sciorta. Siamo negli anni 50 e stiamo seguendo i primi anni di Massimo Troisi tra oratorio e strada a San Giorgio a Cremano. Massimo è ben inserito, gli amici gli vogliono bene, lui è generoso, arguto, un po' impacciato. Spesso fa e dice delle cose che fanno molto ridere e porta tanta allegria nel gruppo. È lì che impara a essere un buon amico, perché fra ragazzini si sviluppa quell'amicizia profonda, un po' cameratesca, che spesso scatta tra maschi. Come ci conferma Giovanni Benincasa, suo amico ai tempi delle elementari. Con le persone vicino a lui ha inventato un modo di essere amico, che era veramente unico, perché un uomo così generoso sul piano proprio dell'amicizia, del piacere, di dare soltanto ai fini di dare, io non l'ho ancora mai trovato. Massimo ama poi fare gli scherzi, e questo continuerà a farlo anche da adulto. La sua visione del mondo passa da una risata e una pacca sulla spalla. Anche sugli argomenti più delicati, sa essere sempre leggero, sdrammatizzante, mai superficiale. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare. Questo modo di fare, irriverente e rispettoso allo stesso tempo, diventa presto un'abitudine che lo accompagnerà tutta la vita. Non è tipo da piangersi addosso. Massimo affronterà così anche la sua malattia, con fatalismo e serenità, senza mai concedere troppo spazio a questa invadente compagna e impedendo fino all'ultimo che questa condizione fermi il suo lavoro. Ce lo spiega bene l'amico e collega Renato Scarpa a proposito della lavorazione del film Il Postino. Ed è stata un'esperienza umana grandissima. Perché lui stava male e ha voluto fare questo film a tutti i costi. Tutti gli dicevano, ma dai, fai il trapianto e poi lo farai. E lui diceva, no, questo film lo voglio fare col mio cuore. Perché, diciamo, quando mai il cuore di un altro? Ma che è? Diceva. E poi questo film è il suo testamento morale. Nel gruppetto di ragazzini dell'oratorio di Sant'Anna ce n'è uno con cui Massimo lega particolarmente. È piuttosto cicciottello, basso, ha gli occhi un po' strabici e in testa un casco di capelli neri. È buffo, sempre un po' troppo petulante, ma generoso e simpatico più che mai. Massimo lo provoca, lo punzecchia, gli sta sempre dietro e se non lo vede all'oratorio lo va a chiamare a casa. Spesso lo prende in giro e lui gli tiene testa rispondendo a volte con una battuta, a volte con una risata. Certo è che non si offende mai. Si chiama Raffaello, ma per tutti è Lello. Lello Arena. Lello Arena. Lello nasce a Napoli il 1 novembre 1953. La sua famiglia decide di trasferirsi a San Giorgio a Cremano, paesino vicino alla città, che conserva un'anima più a misura d'uomo. Ed è qui che Lello e Massimo si incontreranno. All'oratorio il passatempo preferito per i due è stare ore e ore seduti sul muretto, le gambe penzoloni, a pensare a scherzi da fare ai compagni o a inseguirsi in dialoghi dalle logiche strampalate. Lello ha sempre desiderato fare l'attore e sente che con quel suo amico riesce a dare il meglio di sé. Come Massimo, riesce a far ridere con poco. Basta una pausa, una ripetizione o semplicemente il racconto di un fatto di vita quotidiano. A me non manca... Non mi hanno mai provato a derubare. L'unica volta che mi hanno provato a derubare è stata a Napoli, tanto per dire. Cioè, sono napoletano, non lo posso dire. Perché è arrivato uno per strada, era mezzogiorno, stava un sacco di gente, che mi è venuto incontro. Lello, mamma mia, da quanto tempo non ci vediamo? Io ho detto, forse non mi ricordo. E ci siamo abbracciati fortissimo, proprio quasi con le lacrime agli occhi. Papà! Quello se papà ti potesse salutare, guarda, se scendi un attimo qua nel vicolo, io abito proprio qua dietro, io c'hai ho fretta, ho detto, no guarda, per pazienza, c'ho un appuntamento, mannaggia, no perché se tu scendevi nel vicolo, io proprio, c'ho una 500 che mi sei bloccata, tu mi davi una mano, se la spingevamo sul vicolo, quello si metteva in moto, a un certo punto ha visto che gli facevo resistenza, ma si è accostato così, ha detto, tengo una pistola in tasca, dammi tutto quello che c'hai, così. Io l'ho preso per le spalle, ma che si scema, ci stanno 10.000 persone, cioè basta che strilla e arrivano tutto quanto addosso. Ma sei pazziano, ma che sei, ma che si scema, ma se... non ho mai capito se veramente mi stavano rapinando. Sarà proprio da questi pomeriggi passati a ridere su Moretto, rincorrendosi in discorsi ingarbugliati e inseguendo idee bislacche, che nascerà l'idea di mettere su uno spettacolo nel teatro dell'oratorio. Una cosa alla buona per divertirsi e far divertire. Si impegnano tanto nel suo allestimento, coinvolgono tutti quelli che conoscono, curano la regia, le luci, i costumi, e alla fine arriva la sera del debutto. Sul palco Massimo, Lello e l'amico Enzo De Caro, che si unirà al gruppo in maniera stabile. Il nome scelto per la compagnia? I Saraceni. Per il piccolo paese di provincia lo spettacolo diventa una festa. Si è sparsa la voce che quei ragazzi sono affiatati. Uno parte con discorsi svaporati e irresistibili, e l'altro gli va dietro amplificando le situazioni paradossali. Infine il terzo suona la chitarra ed è un'ottima spalla. Sono davvero simpatici insieme. Nessuno in paese ha voluto mancare l'occasione di vederli. Il successo è sopra le aspettative e il giorno dopo, nella piccola cittadina, non si parla d'altro. Ma i tre vengono dalla strada, sono abituati a conquistarseli i traguardi e non si montano certo la testa. Una serata magica può capitare a chiunque, soprattutto con un pubblico di parenti e amici, gente che il giorno dopo incontri a bere il caffè al bar. Hanno bisogno di farsi un po' le ossa e vogliono conferme per capire se possono salire più in alto. Cambio solo in faccia, ogni figliola s'appiccia, se lo vede passare. Una sigaretta in bocca, una mano in da sacca, e se ne va smargiassa per tutta la città. O Sarrasino, o Sarrasino, o bello bagliore, o Sarrasino, o Sarrasino. Massimo Troisi e Lello Arena, forti del successo ottenuto con il loro primo spettacolo comico all'oratorio del paese nel 71, sommano le proprie esigue finanze e affittano un garage che adibiscono a teatro. Lo chiamano Centro Teatro Spazio. Un nome non certo poetico, ma perfettamente intonato agli anni 70. Sa di sperimentazione giovanile, pochi soldi e molto entusiasmo. Gli sketch che propongono fanno molto ridere e la gente torna spesso a vederli. Il garage è sempre pieno, ma nonostante questo il pubblico è sempre lo stesso. Sono amici, amici di amici, parenti, gente dei paesi limitrofi. Il repertorio, rigorosamente in dialetto stretto, è diverso ogni settimana. Ma quei tre sanno bene che quei successi non fanno ancora testo. Quella platea ormai ride per qualsiasi cosa. Ben altra cosa è far ridere i romani, i milanesi, i siciliani, gente abituata a tutt'altra comicità e che capisce anche poco il napoletano. Quello sarebbe un successo vero. Scalpitano i Saraceni. Hanno voglia di mettersi alla prova, di oltrepassare i confini. Soprattutto Lello vuole vedere fino a che punto riescono ad arrivare. Così approdano ai cabaret più importanti con l'umiltà di chissà che le loro ambizioni possono svanire come una chiazza d'acqua su un marciapiede d'estate. I tre però ancora una volta sul palco si divertono e fanno divertire. Sanno essere irriverenti eppure profondi. Parlano di temi semplici ma inconsueti e soprattutto hanno tempi comici straordinari. Insomma, come si dice in gergo, il gruppo spacca e il pubblico impazzisce. Nel quartiere c'era anche un giovane che aspirava a togliere il posto a Don Gennarino. Era l'aspirante guappo Shirin napoletano. Io sono guappo, sa. Chi è guappo? Cioè, proprio questo stavo dicendo. Già, ho detto, ah, chi è io? Ah, Don Gennarino, non mi fate male. Quando i tre ragazzi iniziano a crederci, Massimo si ammala. Il suo cuore ha bisogno di una nuova valvola mitralica e l'Italia non è preparata per questo tipo di intervento. La situazione è piuttosto grave e i soldi che può mettere a disposizione la famiglia non bastano. Il Centro Teatro Spazio sospende gli spettacoli e in un momento in paese si sparge la voce. Ed è a questo punto che succede un fatto inconsueto. La famiglia non si può permettere questa somma, ma l'amico Lello pensa che il paese è grande e se tutti collaborano la cifra diventa possibile. Organizza così una colletta per pagare il viaggio in America, intervento e degenza in ospedale. E la gente risponde generosa. Tutti a San Giorgio a Cremano e nei paesi vicini partecipano come possono, amici, conoscenti, vicini di casa, ma anche oratori, scuole, uffici. Anche il giornale Il Mattino versa una grossa somma per salvare quel Pulcinella moderno che tutti considerano un regalo della vita. Parlare di Massimo è sempre una cosa che mi commuove, perché è stato un incontro di destino, come si potrebbe dire. Mi ricordo una frase famosa di Dickens, del David Copperfield, che dice: lei è una di quelle persone che si incontrano quando la vita ha deciso di farti un regalo. E questa è la commozione. Perché Massimo è stato veramente un regalo, non solo per me, ma per tutti. Massimo verrà operato negli Stati Uniti. L'intervento riesce perfettamente e lui può così tornare alla sua vita e ai suoi sogni. Ma Massimo non è un tipo da lasciar passare inosservata una prova di così grande amore da parte dei suoi concittadini. Vuole ringraziarli con un segno che in maniera inequivocabile racconti la sua gratitudine. Il gruppo non si chiamerà più i Saraceni, ma porterà un nome dal sapore molto più napoletano. Sarà La Smorfia. E quel nome non si può certo dire che non abbia portato loro fortuna. Siamo all'inizio degli anni Ottanta e tutta l'Italia si sta preparando a vivere il suo periodo d'oro. Dimenticati i sacrifici del dopoguerra, distante la sbronza lavorativa del boom economico, passati gli anni della contestazione dei pari diritti, la penisola vuole divertirsi e la televisione sta assaggiando le sue potenzialità. Mancherà ancora parecchio per trasmissioni come Drive-In, Emilio o Zelig, ma le prime avvisaglie di una TV che fa divertire come dal vivo iniziano a farsi sentire e La Smorfia ci prova. La Smorfia buca lo schermo. In poco tempo quei tre ragazzi spontanei, che fanno una comicità nuova ed elegante, sono amati da tutta l'Italia, insieme ad altri personaggi diventati poi popolarissimi in quegli anni come Marco Messeri, Carlo Verdone, Pino Daniele, Zuzzurra e Gaspare, i Giancattivi, trio formato da Francesco Nuti, Atina Cenci e Alessandro Benvenuti, partecipano a Non Stop, una trasmissione televisiva senza presentatore, con i comici che entrano a schiaffo e col pubblico seduto per terra in studio. San Gennaro non mi fa mancare niente, cioè va che va. San Gennaro, si potesse anticipare un po' che pratiche che la grazia. Cioè, non c'è bisogno, hai capito? San Gennaro. Ma fanno te fa. San Gennaro, buongiorno! Sta parlando con frate qui. San Gennaro, ci stiamo a spiegare, io faccio parlare, però tu già sai che fai, sono cliente e voglio trattamento. Quel giovane ragazzo alto e magro, sempre un po' impacciato, capace di ragionamenti aggrovigliati, insieme al suo amico buffo e dai tempi comici perfetti, diventano il gruppo di punta della trasmissione. Lello e Massimo sono la coppia comica del momento. I ragazzini per strada li imitano, i professori a scuola li citano. Presto vengono richiesti in altri format, come La Sberla e Luna Park. Ma il futuro riserva sempre sorprese, nel bene e nel male. E qui non si può certo dire che sia stato avaro. Quello che succederà lo vedremo tra poco, a Destini Incrociati. Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo all'inizio degli anni Ottanta. Due giovani ragazzi napoletani che si conoscono dai tempi dell'oratorio, dopo aver lavorato per anni nei teatri e nei cabaret, approdano in televisione alle trasmissioni comiche Non Stop, La Sberla e Luna Park. Il loro successo è travolgente, la loro comicità è inarrestabile. Fanno parte del trio La Smorfia, ma loro sono Massimo Troisi e Lello Arena. Nel loro repertorio compaiono alcune tra le scenette più famose ed esilaranti del cabaret televisivo, veri e propri classici. Da San Gennaro ad Angelo e Diavolo, da Dio a Chetti. Ma il loro cavallo di battaglia, quello che li consacra al grande pubblico, rimane sicuramente Annunciazione, Annunciazione. Nell'intenzione iniziale il pezzo vuole trattare la mancanza di lavoro a Napoli, ma viene montato su un motore comico azzeccato e diventa strepitoso. Lello interpreta l'Arcangelo Gabriele, scemo e non vedente, che nel tentativo di portare l'annunciazione della nascita di Gesù alla Madonna, sbaglia e arriva nella casa della moglie di un pescatore, interpretata da Massimo, che si lamenta delle condizioni di lavoro del marito. È uno che sta là, che ha dato una mezzo mare, allora noi che stiamo a casa, che aspettiamo il marito nostro che torna una mezzo mare, stiamo sempre preoccupati. E diciamo, tornerà? Non tornerà. E se basta un lampo, non torna. Allora noi diciamo che qualcosa è successo, pure perché si sentono tante cose. L'altra volta per televisione, la barca torna sola e la barca torna sola. uno si è stifato per ricevere che era anche mio marito. Annunciazione, annunciazione. Tu, Marie, fai figlio di Salvatore. Gabriele ti ha dato la buona notizia. Annunciazione. Ma fatti fatti che io non sono Marie, guarda. Dopo pochi anni di esperienze televisive, anche il piccolo schermo diventa inadeguato per le potenzialità comiche del gruppo. Ma mentre Enzo vuole continuare col teatro, Massimo e Lello si sentono pronti per accettare nuove sfide. Il gruppo decide così di sciogliersi e i tre diventano battitori liberi. Enzo, dopo aver continuato col teatro, si dedicherà al cinema e ad oggi è uno dei più importanti attori di fiction televisive. Massimo Troisi e Lello Arena, invece, si cimentano subito nel cinema, continuando a lavorare insieme. Lello ha il physique du rôle del comico, capace di strappare una risata a qualsiasi cosa dica, e insieme a Massimo ha l'apparenza più serio, ma con l'espressione imbarazzata di chi si trova dov'è, sempre un po' per caso, non sbagliano. La pellicola Ricomincio da tre è geniale e il successo è straordinario. Alla sua uscita tutti si rendono conto che rimarrà leggendario e il film entra nella storia del cinema. Cioè, sto dicendo che parte, no? E poi non, ma non magra, non ce la faccio più, cioè, quello che è stato, basta, ricominci da tre. Da zero. Eh? Da zero, ricominci da zero. No, signor, ricominci da, cioè, tre cose mi sono riuscito in Davide, perché ha già perduto pure questo? Che ha già ricominciato da zero, da tre. Il film ottiene un successo di pubblico travolgente. Addirittura un cinema di Roma lo programma ininterrottamente per un anno intero, cosa mai successa prima e mai più verificatasi dopo, tantomeno per un film in napoletano stretto. Massimo in questa pellicola, oltre a recitare come protagonista, firma la regia e il soggetto. Verrà premiato con due nastri d'argento, quello per il miglior regista esordiente e per il miglior soggetto, e due David di Donatello, per il miglior film e il migliore attore. E certe scene recitate dai due comici insieme diventano memorabili. Massimo nel film è Gaetano, un giovane di Napoli. Ha un amico caro, Lello appunto, ma è stufo di quella vita provinciale, monotona e senza prospettive, il cui divertimento maggiore è andare al cinema. Decide di partire, vuole fare altre esperienze, conoscere il mondo. Insieme all'amico andrà a Firenze, conoscerà ragazze emancipate e madri possessive, sacerdoti mormoni e psicopatici in libertà. Un'umanità variopinta e diversa, concorde però su una cosa. Da Napoli non vengono viaggiatori, ma solo emigranti. Robertino, guarda chi c'è. Vieni avanti, prendi. Salve Robertino, questo è Gaetano. Sei contento che c'è Frankie? E questo Gaetano non è americano? No, è di Napoli. Ah, è emigrante. No, io non lavoro a Napoli, ce l'avevo, ci lavoravo normalmente, solo che sono partito per viaggiare, per conoscere, poi ho incontrato a Frank e sto qua. L'intesa tra i due funziona talmente tanto che i produttori propongono subito un altro soggetto. E la volta di No grazie il caffè mi rende nervoso, che non bissa lo strepitoso trionfo dell'opera precedente. Ma due anni dopo Massimo e Lello sono ancora insieme. Il film si chiama Scusate il ritardo. Il soggetto è originale, la coppia è irrefrenabile, la profondità dei temi trattati è attuale ancora oggi. Anche in questo caso i due insieme fanno centro e il pubblico impazzisce. Guardala in faccia la realtà, è più sicura. Guardala in faccia la realtà, è meno dura. Se c'è qualcosa che non ti va, dillo alla luna. Massimo Troisi nel film Scusate il ritardo è Vincenzo, un giovane disoccupato in bilico tra un rapporto d'amore traballante e un amico invadente. Il film, oltre a sbancare il botteghino, otterrà molti riconoscimenti dagli addetti ai lavori, dalla Maschera d'Argento al premio Ubu, dal premio De Sica al David di Donatello, come migliore attore non protagonista, vinto da Lello nell'83. Allora tu sta proprio male. No, che fai? Io ho capito. Ho capito tutti. Io devo uscire da questo inferno, perché non posso andare avanti così. No, Donny, nemmeno io. Scusa, ma a casa è da sciare questo inferno. Ci sta un solo modo. Vince, io mi uccido. No, non voglio pietà, non voglio compassione. Io mi uccido. Meglio un giorno da leone, Vince. Meglio 100 giorni da pecora. Meglio un giorno da leone, no? No, ma Donny, meglio. Non sa, da pecore e da leone. Fai 50 giorni da orso a chiodo, Me ne stai in mezzo, non fai la figura in mezzo della pecora e nemmeno un leone, però. Nei loro film, i personaggi sono molto diversi da quelli classici della tradizione. Non ci sono pizza mandolino e neanche esuberanze affettive. Piuttosto c'è l'ironia su alcuni vizi partenopei come la superstizione. Sono personaggi imbarazzati quelli che ci regalano, che stanno nella vita sempre un po' chiedendo il permesso, fragili, umani e ancora oggi attuali. E soprattutto capaci di ribaltare i ragionamenti andando a svelare il lato ironico e grottesco che ogni situazione nasconde. Come nel caso in cui il personaggio di Massimo, Vincenzo, cerca di giustificarsi col prete per non volere andare a vedere la Madonna che piange. Vincenzo, no, va, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio a vedere altra gente che piange e cose, veramente. Come gente? La Madonna che è gente? No, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè, sono io che sto così. E voglio vedere gente un po' più... Cioè, non lo so, se la Madonna, sinceramente, se rideva, ci veniva. Sì, la Madonna rideva. Lello Arena è un comico straordinario, divertente, buffo. È quello che viene chiamato un comico naturale, perché non deve fare tanto sul palco per risultare simpatico e strappare una risata. Massimo e Lello hanno voglia di raccogliere nuove sfide. Pur continuando a mantenere viva l'amicizia e la frequentazione dopo il teatro, la televisione, il cinema, separano i loro percorsi artistici. Lello quindi collaborerà con altri attori, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Carlo Verdone, Massimo Lopez, e altri registi come Mario Monicelli e Vittorio Taviani, di cui sposa la figlia Francesca nel 2006. Tornerà a fare teatro e televisione e si cimenterà anche nella regia cinematografica con il film Chiari di Luna, firmandone anche il soggetto e la sceneggiatura. La carriera di Massimo invece incontra quella di un altro grandissimo comico, Roberto Benigni. Quando i due si conoscono scatta subito un feeling immediato e l'idea di poter lavorare insieme a una sceneggiatura diventa un passo scontato. Bisogna solo trovare il soggetto giusto. Massimo è pigro, vuole stare tranquillo, meglio se a casa sua. Con Lello le idee sono sempre nate divertendosi, giocando, vivendo la vita nella sua quotidianità. Non è il tipo Massimo da mettersi a tavolino a discutere razionalmente e non ha voglia di scervellarsi più di tanto. Occorre qualcosa che li distragga e li faccia conoscere meglio per far sì che i loro strumenti si accordino. Sun, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Destini incrociati. A destini incrociati siamo alla fine degli anni Ottanta. Lello Arena e il suo amico d'infanzia Massimo Troisi, dopo aver lavorato insieme in teatro, televisione, cinema e aver cambiato i modelli di comicità finora proposti, hanno bisogno di sperimentarsi in situazioni nuove e con persone diverse. Lello lavora fra gli altri con Alberto Sordi, Carlo Verdone, Monicelli, mentre Massimo inizia una proficua collaborazione con Roberto Benigni. Massimo e Roberto hanno bisogno di trovare il giusto affiatamento e così riescono a convincere la produzione che una vacanza potrebbe essere utile al progetto e partono per la montagna. Destinazione Cortina d'Ampezzo. Dopo un mese però le risate sono state tante, la conoscenza si è approfondita, ma ancora il soggetto non viene fuori. Probabilmente la montagna non è l'ambiente giusto. Massimo è napoletano, abituato al sole, al caldo. Con le temperature rigide delle Dolomiti ci si congela anche la creatività. Meglio provare col mare. Ma ancora dopo 15 giorni la situazione non fa grandi passi avanti. Allora è la volta della campagna, località Val d'Orcia. Alla fine torneranno a casa con due appunti scarni. Saverio e Mario sono amici, vanno indietro nel tempo, si perdono nel Medioevo e decidono di fermare Cristoforo Colombo per evitare che scopra l'America. Scusi, perdono. Volevamo sapere una cosa, non si preoccupi. Cioè, noi qua siamo a Frittola e va bene, ma... Che siamo veramente nell'anno 1400, no? Quasi 1500. Ma stanno lì a vedere. Oh! Quanto dura questo scherzo? Eh? con una persona che sta male come Mario, gli ho detto prima, e continua a fare questo scherzo. Non sarebbe neanche per me, a me che mi interessa, io lo scherzo lo leggo, è Mario che sta male, non legge lo scherzo. Andare in giro vestito così, imbecille, Mario? Il film Non ci resta che piangere. Nonostante l'inizio scalcagnato, i due artisti sono una garanzia. Massimo e Roberto sono affiatati, si prendono in giro, si incalzano l'uno con l'altro con le battute, si fanno da spalla. Insomma, sanno bene come creare una tensione che genera una situazione comica. Tutta l'esperienza che Massimo si è fatto con Lello, anche qua dà frutti. Sul set i due si divertono talmente che nella scena in cui passano la dogana, nonostante il fatto che è stata girata più e più volte, non riescono a stare seri. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno! Io sono entrato e sono scendo, no? Un fiorino! C'è uno che entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì. Ragazzi, arrivederci. Senta. Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Non ci resta che piangere rimarrà l'unico film girato dalla coppia. Massimo e Roberto hanno altri contratti da adempiere. Dopo il film con Benigni, Massimo lavora a fianco di Marcello Mastroianni per tre pellicole di Ettore Scola, Splendor, Che ora è, e Il viaggio del Capitan Fracassa, vincendo una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 1991 firma la regia, il soggetto e la sceneggiatura di Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, film che lui stesso interpreta al fianco di Francesca Neri e Marco Messeri. Massimo è un uomo con cui è facile lavorare. Con molti artisti con cui collaborerà, nascerà un'amicizia fortissima, come con Pino Daniele, che firmerà tante musiche per i suoi film. A me, tu sei come fuoco ora. A me, quando si è innamorato. Massimo Troisi, se può, rimane in casa volentieri, ma casa sua è aperta a collaboratori, amici o a chiunque voglia andare a trovarlo. Una risata insieme e uno sbuffo di autoironia legano più di qualsiasi altra esperienza. Ce lo spiega bene l'amico Carlo Verdone. Sapeva che aspettava una telefonata che mi era molto importante. Mi ero fuori. Ah, lui che cosa fece? Pronto Carlo, non c'era nessuno a casa, c'era la segreteria telefonica. Pronto Carlo, su Massimo, dai, hai il suo telefono. Non so fare bene il napoletano. Carlo, dai, un saccio che sta là. Carlo, dai, su Massimo, Carlo, dai, hai il suo telefono. Carlo, Carlo, dai, che su Massimo, un saccio che tu sta là. Carlo. Sai quanto è andato avanti? 40 minuti. Ma ha scaricato il nastro. Tutto per lui è scherzo e divertimento. Il gioco è una lente con cui filtra tutte le vicende della realtà, da quelle più drammatiche a quelle più improbabili. Con il passare degli anni, la nota più ironica del comico si mischia a quella poetica e sicuramente più malinconica del grande artista napoletano. Massimo Troisi ha appena iniziato a girare un film particolare quando si ammala di nuovo e questa volta molto più gravemente. Le febbri reumatiche di cui soffre dall'età di 12 anni e che già l'avevano costretto a un intervento gli hanno procurato complicanze cardiache che ora sono diventate pesanti. Se in passato era stata sostituita solo la valvola mitralica, ora è la volta di tutto il cuore. L'intervento è molto delicato, i rischi elevati, occorre avere moltissima pazienza perché bisogna trovare un donatore compatibile. L'intervento poi è terribilmente urgente. Nel frattempo Massimo ha bisogno di molto riposo, non deve essere sottoposto a nessuna emozione forte, tantomeno ad alcuna fatica fisica. Ciò nonostante Massimo non vuole rinunciare al suo film e continua a girare. In molte scene si farà sostituire da Gerardo Ferrara, controfigura perfetta che con amore studia il modo di muoversi, i ritmi e la postura di Massimo. Tutti a Salina fanno il tifo per l'attore napoletano, dall'albergatrice che li ospita ai tecnici della troupe, dai colleghi agli abitanti della piccola isola, e lui con generosità inventerà un personaggio straordinario. Sul set si crea un'atmosfera immobile, irreale, commossa. I temi della poesia si mischieranno a quelli della vita e della morte, dell'amore e del destino, in una sceneggiatura profondamente poetica. Il film, ovviamente, è Il postino. Quando la pellicola esce nelle sale, ottiene riconoscimenti inaspettati. Da Sean Connery, che giudica Il postino il più bel film che sia mai stato girato, al New York Times, che lo inserirà nei migliori film di sempre, fino alle candidature all'Oscar a Hollywood. Al termine delle riprese, Massimo è stremato. Bisogna assolutamente evitare altri strapazzi e aspettare. Massimo tornerà a Roma, a casa della sorella Anna Maria e da suo marito Alfredo Cozzolino, suo amico storico dai tempi dell'oratorio. Il giorno dopo la fine delle riprese è domenica. Anna Maria insisterà perché lui dopo pranzo vada a riposarsi. Nella casa scende un silenzio rispettoso. Ci metteranno un po' a capire che Massimo se n'è andato. Nel sonno, senza dare fastidio, come faceva nella vita. Poi è tutta una frenesia. Urla, pianti, sirene di ambulanze, tanto dolore. Tutta l'Italia ne è sconvolta e con lei il mondo intero. Lello arriverà subito a casa della sorella dell'amico e con lui tutti gli altri, Ettore Scola, Carlo Verdone, Enzo De Caro, Roberto Benigni. Lello Arena ancora adesso si commuove quando parla dell'amico Massimo. Commozione e gratitudine sono i sentimenti che predominano. Massimo rimarrà nel cuore di tutti, italiani e non, parenti, amici e collaboratori. Dal grande amico e collega Lello Arena a Pino Daniele, da Roberto Vecchioni a Roberto Benigni, che da grande poeta qual è, ha dedicato all'amico una delle sue più struggenti poesie. Non so cosa teneva d'inta a capa, intelligente, generoso, scaltro. Per lui non vale il detto che è del Papa. Morto un Troisi non se ne fa un altro. Morto Troisi muore la segreta arte di quella dolce tarantella. Ciò che Moravia disse del poeta, io lo ridico per un pulcinella. La gioia di bagnarsi in quel diluvio di Yammo, Sacchennaccio e Locaz era come parlare col Vesuvio, era come ascoltare del buon jazz. Non si capisce, urlavano sicuri, questo Troisi se ne resti al sud. Adesso lo capiscono i canguri, gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino. E non m'ha mai parlato della pizza e non m'ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo fra ciò che il mondo dona di più caro. Ha fatto più miracoli il tuo verbo di quello dell'amato San Gennaro. Prima che fosse notte, sui pomeriggi tuoi, prima che ingannarti fosse la tua sorte coi suoi sempre e coi suoi mai, cuore di sonno e di caffè. Che bello adesso ricordarti, tocca proprio a me, nei tuoi silenzi aspetterò, sognando un po'.